500.000 persone la mattina del 9 novembre attraversano il muro e si spargono per le strade dell'Occidente, Berlino. Giovani, vecchi e mamme con passeggini. Gente, insomma, sotto lo sguardo allucinato degli ex onnipotenti, i funzionari SED, il Partito Comunista, e le spie della Stasi, che solo 4 settimane prima avevano festeggiato in tutta pompa i 40 anni della Germania Democratica e 28 anni di muro. La Germania Democratica però si sgretolava da mesi. Nel maggio 1989 Gorbaciov era in visita dal cancelliere federale Helmut Kohl a spiegare la nuova politica sovietica, la perestroica. Mosca non aveva più l'intenzione di reprimere l'eventuale sviluppo democratico dei paesi aderenti al patto di Varsavia. A medio termine, questo significava la fine della Germania democratica, la cui esistenza era legata esclusivamente alla questione ideologica. Lo smantellamento ufficiale del muro inizierà il 13 giugno 1990 e impegnerà 900 soldati, 13 bulldozer, 55 ruspe e 175 camion. La fine di un'epoca è pura contabilità edilizia. Berlino, 1958. Ogni giorno, senza controlli, 500.000 di persone si travasa da un capo all'altro della città. Gli Ostberliner vanno a zonzo per il Kudamm, la vetrina dell'Occidente, frequentano i cinema, testimone d'accusa di Billy Wilder con Marlene Dietrich e il film del momento. I Westberliner invece apprezzano i teatri dell'Est. Quasi ogni cittadino delle due Berlino ha parenti e amici nell'altra parte. Vite pendolari. Ma sotto coperta le macchine della storia vanno avanti tutta. L'interruzione dei contatti telefonici tra Est e Ovest nel 1952 era stato solo un avvertimento. Nello stesso anno la frontiera tra Germania Democratica e Federale era stata chiusa col filo spinato, solo Berlino era stata risparmiata. Ma i tedeschi democratici, soprattutto le risorse più qualificate, continuavano ad emigrare in massa. Il 27 novembre 1958 Khrushchev propone la smilitarizzazione della città entro 6 mesi, pena l'armistizio separato dell'Unione Sovietica con la Germania Democratica. Una versione diplomatica del blocco totale che nel 1948 aveva provocato l'assedio della Berlino Occidentale, vinto con il famoso ponte aereo, ogni 5 minuti partivano via aria scorte per Berlino, cui era stato bloccato ogni altro accesso. L'Occidente ha paura, se da un lato non vuole perdere la faccia non è disposto a scatenare un nuovo conflitto mondiale per salvare mezza città. Questa paura lo rende indignato, ma mansueto. Ma mentre Kennedy trionfa accanto a Brandt con la sua storica frase «Ich bin in Berlin», il 31 luglio 1961 il segretario di Stato Fulbright afferma «Non capisco perché l'amministrazione della DDR non chiuda le frontiere, ne avrebbe ogni diritto». Il capo della SED, Walter Ulbricht, non se lo fa dire 2 volte. Già nel marzo dello stesso anno aveva cercato di convincere l'amministrazione sovietica a chiudere con del filo spinato ogni passaggio. Questa però aveva reagito negativamente perché temeva un crollo dell'immagine comunista. Ulbricht quindi non fece altro che limitare ulteriormente i controlli alla frontiera facendo fuggire migliaia di persone per mettere l'URSS di fronte all'inoppugnabile necessità. In un incontro segreto a Mosca, dal 3 al 5 agosto 1961, gli verrà infine dato ascolto. Il 7 agosto Khrushchev annuncia che la comoda via di fuga a Berlino dovrà essere chiusa, provocando un'ultima ondata di fughe. Saranno in 4.000 a fuggire nel solo giorno del 12 agosto. L'operazione muraglia cinese inizia il 12 agosto, alle 4 del pomeriggio. Il 13 agosto 1961, di domenica, l'Agenzia della Germania Democratica, ADN, annuncia: gli stati del patto di Varsavia hanno pregato il governo della Germania Democratica di effettuare un controllo efficace delle proprie frontiere a Berlino. Un'ora dopo, 67 degli 81 passaggi sono chiusi, le linee tranviarie e metropolitane interrotte, il vallo di protezione antifascista e il muro di Berlino sarebbe durato 28 anni e qualche mese. Tito Gandini, reporter associati per Amisnet.